ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Lavaggi nasali e gargarismi potrebbero essere utili per prevenire l'infezione da Covid-19, quanto suggerisce uno studio italiano pubblicato sull'International Journal of Immunopathology and Pharmacology, che commentiamo a Obiettivo Salute con il professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di statistica medica e di epidemiologia molecolare all'Università Campus Biomedico di Roma, che ha partecipato alla ricerca. Buongiorno, grazie dell'invito. Sì, è una ricerca così, diciamo, preventiva. L'abbiamo fatta insieme al gruppo del professor Casale, che sono il gruppo degli otorini, e diciamo che abbiamo intuito che lo ione cloruro che si trova nelle soluzioni saline del lavaggio nasale può dar fastidio al virus, così come la soluzione alcolica dei gargarismi. Attenzione, due cose importanti. Non farlo, e così è stato anche sconsigliato dai pediatri, giustamente, quando siamo in un picco epidemico, perché al contrario potrebbe favorire e non sfavorire l'ingresso del virus nelle mucose nasali o nella gola, e addirittura potrebbe farci danno. Ma quando siamo alla fine di un'epidemia, come siamo adesso, stiamo andando verso la fine, e quindi dovremmo affrontare l'autunno, quindi ottobre, novembre, sperando che il virus circoli per niente o di meno, il meno possibile, ecco, allora in quel caso una procedura igienica come questa, fatta, non so, due volte al giorno, la mattina e la sera, specialmente per i bambini, lavaggi nasali per i bambini, ecco, potrebbero in qualche modo interferire in una percentuale giusta, 20-30%, la possibilità di poter avere il virus all'interno. Tumore del colon. Uno studio italiano trova il meccanismo per fare breccia in un bersaglio terapeutico sino ad ora inespugnato. A Obiettivo Salute il commento del professor Alberto Bardelli, direttore del laboratorio di oncologia molecolare all'IRCS Candiolo, che ha guidato il team. Sì, buongiorno. È un piacere raccontarvi una storia tutta italiana, fatta da un mio giovane collaboratore, un dottorando di ricerca, pugliese ma qui a Torino, e una mia ex dottoranda che adesso è a New York. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto come un farmaco contro il gene KRAS, che rimaneva un bersaglio inespugnabile per tutti i tumori, sia oggi aggredibile. Lo facciamo avendo compreso che il polmone, che è stato il primo bersaglio di questo farmaco, è diverso dal colon, e mentre nel polmone è necessario dare un unico farmaco, quello che abbiamo scoperto è che per aggredire lo stesso bersaglio ma nel tumore del colon è necessario accoppiare un secondo farmaco. Questa scoperta è stata fatta in modelli preclinici, quindi negli avatar dei pazienti, ma pensiamo che possa essere immediatamente applicata in clinica. E infatti a New York è già partito il primo studio che ne valuterà l'efficacia. Bene, per oggi è tutto. Come ogni giorno vi invito a visitare la pagina Facebook di Obiettivo Salute, dove oggi potete trovare una pillola di salute per investire in prevenzione. Vi auguro una buonissima giornata e vi aspetto. Ci sentiamo domani sempre alle 6:15 per iniziare la giornata. Buona giornata da Nicoletta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.